Il Terzo Anello, ad alta voce, in collaborazione con la Discoteca di Stato Museo dell'Audiovisivo. Iaia Forte legge Il mare non bagna Napoli, di Anna Maria Ortese. A distanza di qualche anno, era tanto che mancavo da Napoli, la famosa riviera di Chiaia appariva un'altra. Una patina, misterioso intruglio di piogge, polvere e soprattutto di noia, si era distesa sulle facciate velandone le ferite e riconduceva il paesaggio a quella immobilità rarefatta, a quell'espressivo equivoco sorriso che appare in volto ai defunti. Forse, ove fosse mancata l'eterna folla di Napoli, semovente come un serpe folgorato dal sole ma non ancora ucciso, tra quelle distinte apparenze di un'età remota, quel paesaggio non sarebbe apparso spettrale. Ma quegli uomini e donne e bambini seminudi e cani e gatti ed uccelli, tutte forme nere, sfiancate, svuotate, tutte gole che emettono appena un suono arido, tutti occhi pieni di una luce ossessiva, di una supplica inespressa, tutti quei viventi che si trascinavano in un moto continuo, pari all'attività di un febbricitante, a quella smania tutta nervosa che si impadronisce di certi esseri prima di morire, per un gesto che gli sembra necessario e non è mai il definitivo. Tutta quella grande folla di larve che cucinava all'aperto, o si pettinava, o trafficava, o amava, o dormiva, ma mai veramente dormiva, era sempre agitata, turbava la calma arcaica del paesaggio e, mescolando la decadenza umana alla immutata decenza delle cose, ne traeva quel sorriso equivoco, quel senso di una morte in atto, di vita su un piano diverso dalla vita, scaturita unicamente dalla corruzione. Il sole brillò un momento sulla lastra di un finestrino e per un attimo macchiò di rosso le ginocchia della mia vicina. Essa stava guardando, attraverso i vetri, la strada e quella folla silenziosa di operai e di miserabili che l'animavano. Un sorriso leggerissimo, compiaciuto, vagava nei suoi occhi neri al di sopra della cicatrice. Con la familiarità di questa gente, per cui gli altri non esistono se non come motivo di colloquio, e questo colloquio è più che altro un monologo, senza freni mi disse che per l'8 settembre, festa di Piedigrotta, i lavori sarebbero stati ultimati e la strada pronta per l'impianto delle luminarie, che quest'anno col nuovo sindaco si annunciavano straordinarie. Un uomo magro e dall'aspetto seriamente ammalato, che sedeva di fronte a noi, annuì col capo. Disse sottovoce queste parole, che riferisco più per la stranezza del loro suono, su quelle labbra, che per la loro importanza. Lassa fa Dio. Poco dopo la vettura, che aveva rallentato fin quasi a fermarsi a causa di un gruppo più folto di operai, riprese la sua andatura normale e intanto il sole era calato. Per qualche momento potei osservare, alla sinistra del percorso, le macchie scure degli alberi della villa comunale che fronteggia Chiaia per quasi tutta la sua lunghezza, separandola dal mare. Questo parco, che nei primi anni del Settecento consiste solo di un doppio filare di alberi e di 13 fontane fatte sistemare sulla spiaggia dal duca di Medina, alla fine del secolo fu convertito in giardino da Ferdinando IV e da allora costituì una delle zone più decantate di Napoli. Sul lato verso via Caracciolo possiede un lungo galoppatoio, frequentato tuttora dall'aristocrazia, mentre i viali centrali sono continuamente affollati da bambini e bambini della borghesia che vi portano le loro biciclette e monopattini. I giovani della plebe, invece, esseri dai 5 ai 15 anni, ne invadono volentieri i punti più ombrosi. Vi si recano a fare i loro bisogni oppure a torturare degli animali. O seggono pensando cose d'amore, ruffianerie, canti. I tisici vi sono condotti dai parenti per consiglio del medico e si vedono consumarsi su quelle pietre come bianche ali di farfalla. Benché il circolo della stampa, con la sua lussuosa palazzina, gli conferisca certo decoro formale, la notte quel luogo, attraversato da militari statunitensi e da giovani napoletani, non è affatto sicuro. Neppure in quel momento che gli ultimi raggi del sole sfioravano i rami più alti dei recci e delle palme, indorando pallidamente le statue e busti decapitati, mostrava un aspetto sicuro. Via via che se ne accostava l'ultimo limite, quel giardino diveniva più cupo. A un tratto vidi questo. 5 ragazzi di età indefinibile erano seduti su un muretto, aspettando con volti assolutamente inespressivi che la vettura passasse. Quando questa fu alla loro altezza, uno di loro si alzò in piedi e rapidamente, imitato dagli altri, si sbottonò il davanti dei calzoni. Poi, tenendo il sesso tra le dita come un fiore, si misero a correre sul muro tentando di seguire il tram, con richiami striduli, dolenti, appassionati, che volevano attrarre la nostra attenzione su tutto quanto essi possedevano. Non una delle persone che erano sedute da quel lato della vettura e avevano visto discusse la cosa e neppure sorrise. Il conducente, che si era alzato un momento in piedi, temendo di mettere sotto qualcuno, tornò a sedersi, sospirando di noia, e affrettò l'andatura, così che presto i 5 infelici disparvero. Ma ne apparivano degli altri, sempre con le stesse facce pallide e intente, e si temeva di capire i motivi di quella malata intensità. 2 avevano impiccato una bestiola a un ramo, altri erano intenti a trafiggere una farfalla. Qualcuno urinava qua e là. Non avevano occupazioni ragionevoli. Una pazzia tenera li sollevava. C'era perfino chi levava qualche breve inno alla Vergine. La donna senza naso mi guardava ora quietamente e guardava la strada. E guardando me e la strada insieme, doveva aver pensato qualche cosa intorno a quello che io potevo pensare, perché il sorriso con cui aveva accennato ai festeggiamenti era scomparso per lasciar posto a un breve scintillio sospettoso, raccolto. Infine, mi accorsi che essa aveva smesso di pensare e guardava attentamente nel centro del mio volto. In questo guardare essa non metteva alcun pensiero, eppure la sua intensità e curiosità mi causavano un vero malessere. Anche l'uomo ora guardava nel mezzo del mio volto, poi guardava le mie mani, i piedi. Non poteva suscitare nessuna collera, perché sembrava moribondo, e tuttavia procurava un certo fastidio. Così non aspettai l'ultima fermata, scesi nella piazza Principe di Napoli. La vettura riprese a correre senza di me, e per un poco, aspettando di attraversare, vidi ancora quelle 2 macchie, macchie di cristiani appoggiate ai vetri, seguirmi con lo sguardo, meccanicamente pensierose. La casa del compagnone era in viale Elena, la seconda delle 3 strade che partono da piazza Principe di Napoli e sono via Caracciolo, viale Regina Elena e la forbice via Mergellina Piedigrotta, dove sorge la chiesa omonima, sede degli annuali festeggiamenti. L'altro gruppo sfocia in piazza San Nazaro, vicino alla nota d'arsena di Mergellina. Da questo porticciolo, chiamato in origine Mergoglino, sempre pieno di barche colorate, immerso in una luce e in un silenzio superiore ai colori, ai gridi, al tonfo dei remi che fendono l'acqua chiarissima, parte la via nuova di Posillipo, che segue tutta la collina. E qui si può dire finisca la Napoli plebea, che è tutta Napoli, e cominci quella sezione civile e borghese che per dimora non usa case o casupole, ma solo ville circondate da grandi e scuri giardini con spiaggia propria. In realtà la divisione non è così netta, trovandosi dovunque per Napoli palazzi bellissimi cinti da folti giardini con saloni e scale di marmo, oltre i quali non è possibile immaginare l'oscurità e il fetore dei vicoli. Dove però in Napoli le zone di bellezza e di gioia sono isole, a cominciare da viale Elena, isole o eccezioni sono la bruttezza e lo stento. Cominciano da Mergellina poi quelle alte pareti di tufo giallo, alte come il più alto dei cieli, dove si annidano le tombe di Leopardi e Virgilio, e che difendono i giardini di Posillipo da quei campi flegrei, disseminati di vulcani spenti e solfatare, intorno ai centri abitati o fatti deserti di Bagnoli, Pozzuoli e Cuma. Il compagnone abitava in viale Elena da vari anni e non ricordo se se ne fosse mai compiaciuto. Lo disgustava soprattutto, poiché occupava un ambezzato, la vista della gente che gli appariva mentre stava seduto al suo tavolo, certe facce lerce provenienti dalla vicina Mergellina, che altamente contrastavano con la dignità della zona, e lo contrastava anche il sentire quasi ogni sera gli spari in onore di questo quel patrono e vedere sul terrazzino cadere i fuochi. Ma in seguito non vi aveva fatto più tanto caso. Era un giovane alto, distinto, con una piccola testa dai lineamenti classici coperta di capelli castani. Gli occhi, dal taglio delicato, erano di un azzurro purissimo, velati da lunghe ciglia. Ugualmente delicati, e si può dire greci nella fattura, erano il naso e la bocca dalle labbra finemente unite, e solo di quando in quando piegate all'angolo da un sorriso torbido. Vi era qualcosa in quel volto tra l'estrema gioventù e la vecchiaia, e da anni si era fatta sempre più evidente una lotta tra certa nobiltà e gentilezza che erano in lui e una disperazione e perfidia che erano ugualmente in lui. Poco alla volta, quella parte inferiore di lui, come un male nascosto, era avanzata. Ero a pochi passi dal caffè Fontana quando mi parve di vederlo. Veniva avanti dal marciapiede opposto, con la sua andatura un po' stanca di claudicante, senza fretta. Il viso era leggermente pallido, come di chi ha freddo, e gli occhi guardavano intorno senza gioia, anzi, con una rabbia muta, greve. Stavo per salutarlo quando mi accorsi di averlo soltanto ricordato. Mi accorsi anche di un'altra cosa, che la tranquillità con cui mi ero disposta a recarmi dal compagnone, quasi fosse, come finora lo avevo pensato, un semplice funzionario della radio, quella tranquillità era sparita. Esitai prima di entrare in via Galiani, quasi che il suolo sotto i miei piedi si muovesse leggermente. Anche le case mi parvero leggermente torte e che qua e là si affacciassero figure inquiete, molto pallide, piene di rassegnazione e di collera. Fatti in tale stato d'animo, tra stupito e oppresso, pochi passi, scorsi subito, in fondo viale Elena, l'asfalto di via Caracciolo, illuminato dal chiarore celeste del mare. La casa del funzionario era situata su quell'ultimo tratto della via Galiani, in un palazzo d'angolo tra questa e viale Elena. Vidi il cancello e il terrazzino dell'ammezzato. Il cancello era accostato, come sempre, e il terrazzino deserto. Avrei potuto entrare dall'ingresso principale, ma preferii obbedire ad una vecchia abitudine che, negli anni passati, mi conduceva alla casa del compagnone solo dal lato del cancello, dove quasi tutte le sere, e anche a notte alta, era possibile vedere il salottino illuminato, il funzionario seduto in un angolo, con la sua aria disfatta e mordace, e intorno i giovani amici di lui. Questa volta non mi sbagliavo. Il salottino era completamente spento, perché dai vetri della porta non trapelava il benché minimo filo di luce e solo si distinguevano vagamente le forme dei mobili. Anche il balcone dell'attiguo terrazzino era chiuso e alle cordelle sottili tese tra due muri non dondolava né un fazzoletto né un calzino, dal che dedussi che anche la giovane Anita, moglie del compagnone, era uscita col bambino. Tuttavia, spinto il cancello e superati pochi scalini, appoggiai il dito sul bottone di porcellana infisso nel muro e rimasi in attesa, vagamente impensierita, che qualcuno rispondesse. Non sentivo nessuna vibrazione, perché quel campanello ha un meccanismo particolare e il suo suono è avvertito solo in fondo alla casa, e pensando di vedere spuntare a un tratto la magra figura del giovane, accostai il viso ai vetri. Poco dopo, abituandosi l'occhio a quell'oscurità, la stanza mi fu chiara in tutti i suoi particolari. Era un comune salotto borghese, pieno di mobili vecchi ma scrupolosamente puliti. Quattro porte, compresa quella sulla strada, sembravano disegnate più che incise su quei pallidi muri. Una, sulla parete di fondo, era quella che comunicava col corridoio e la cucina, dove spesso la famiglia del funzionario si intratteneva. Un'altra, a sinistra, divideva la casa del compagnone da un appartamento attiguo, e questa era sbarrata. La terza, sulla destra, immetteva nella stanza dei coniugi e neppure da questa trapelava luce. Proprio vicino alla porta di strada sporgeva l'angolo di un grosso tavolo, coperto da un tappeto di lana grigia. Sopra, in una confusione che in qualche modo non era più quella dei primi anni, stavano ammonticchiati certi libri, si vedevano allineati esigui fasci di carte ed era visibile il fianco di una macchina da scrivere chiusa nella sua custodia. Sulla parete di destra, sotto una lunga stampa grigia raffigurante il ratto delle Sabine, era appoggiato un divanetto vecchio e scomodo coperto da una stoffa rossa, lacerata in più punti. Di fronte al divano, sulla parete opposta, una console di marmo bianco, guarnita da una specchiera dorata, continuava la linea del grosso tavolo. Sulla console un orologio di bronzo con degli amorini non segnava più alcun tempo. La lancetta si era spezzata. Sia ai lati del divanetto che della console, quattro medaglioni di terracotta, raffiguranti una testa di selvaggio del Nord America a grandezza naturale fortemente colorata, avevano sguardi fissi, gelidi. Infine, tutto era gelido in quella stanza. Non un tappeto, né un fiore, né una luce, né un quadro rivelavano qualche compiacenza del padrone di vivere in quella casa, e comunque di vivere. Il senso era una quiete rarefatta, profonda. Continuavo a premere il dito sul bottone di porcellana, da cui non proveniva nessun suono, e a fissare turbata, intenta, la vecchia stanza. Nella prima parte di essa, e precisamente intorno al divano, mi pareva scorgere delle figure e avrei creduto udire il suono di voci familiari. Quella risata, singolarmente lenta e agghiacciante, dove un pensieroso bambino si mescolava a un automa, era di Giovanni Gadkens. Il ragazzo, in divisa alleata acquistata la sanità per 500 lire, seduto nel centro del sofà, così reagiva alla lettura di uno sketch di Compagnone. E questi, con le sue lunghe gambe ancora sane, distese, in un atteggiamento felice tra le sedie occupate dagli amici, sedeva accanto al Gadkens e ora leggeva con una certa maligna grazia, ora pensieroso osservava. Accanto al Gadkens era anche il figlio del colonnello Prunas, piccolo di statura quanto una bambina, stranamente silenzioso, immobile. Intorno al tavolo ecco Lorenza, moglie del Gadkens, piccola, grassa, con i capelli tirati e gli occhiali. Anita, moglie del compagnone, dalla figura slanciata e sbiadita e il volto mite e freddo delle colline al tempo delle nebbie. Queste figure si trattenevano per qualche istante in quell'ambiente, con tutta la precisione e gli inganni ineffabili di una realtà, e poi, come i numeri del quadretto bianco di un tassametro, venivano sostituite, senza che aveste veduto come, da altre ugualmente giovani, seppure non così intense. Iaia Forte ha letto Il mare non bagna Napoli di Anna Maria Ortese, a cura di Fabiana Carobolante e Anna Antonelli. Il terzo anello, @rai.it. La lista dei brani musicali si trova alla pagina di Ad Alta Voce nel sito www.radio3.rai.it. Per scaricare questo programma, www.radio3pod.rai.it.